Brutto giorno di Simone Spezia. Parte l'aumento di capitale di Unicredit, vendite sulle azioni e sui diritti di opzione, titoli di Stato, spread ai massimi da novembre. Avvio sbagliato, ma Grillo e Casaleggio mi appoggiano, dice la sindaca di Roma Virginia Raggi. Romeo, le polizze non erano una forma di finanziamento politico. Corruzione in manette, un poliziotto e due funzionari del Ministero dell'Interno, anche un viceprefetto, c'era anche rilascio di permessi in cambio di denaro. E immigrazione, troveremo i fondi per frenare i flussi, dice il ministro Alfano. Nuovi sbarchi, 500 in arrivo ad Augusta, più di 600 in Calabria. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti, anzi bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque ci occupiamo di banche, perché prende il via oggi un'operazione strategica importante per tutto il settore, ossia l'aumento di capitale di Unicredit. Il punto con Deborah Roscelli. Deborah, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Un'operazione che vale 13 miliardi di euro, che, come dicevi Simone, parte oggi per concludersi ad inizio marzo. La banca emette nuove azioni offrendole ai propri azionisti in opzione in un rapporto di 13 per ogni 5 possedute. I nuovi titoli saranno emessi a 8,09 euro appunto per azione. Quindi questo significa che se una persona ha 10 azioni, aderendo all'aumento di capitale appunto ne otterrà 26 con il nuovo prezzo, ma può anche acquistare altri 10 azioni appunto a 8,09 euro con il diritto di opzione. Allora, perché ho fatto questa precisazione? Perché i diritti di opzione questa mattina stanno letteralmente crollando, segno che questa seconda parte dell'aumento di capitale appunto al momento viene accolta in maniera non tanto positiva. Anche il titolo stamattina scende, adeguandosi naturalmente ai prezzi dell'operazione, meno 3,74%. Questo è il punto per quello che riguarda l'andamento appunto del mercato. È chiaro che tutti stanno cercando di capire cosa intendono fare i soci rilevanti di Unicredit e quale sarà il loro impegno ad aderire alla sottoscrizione dei nuovi titoli. C'è Cari Verona, per esempio, che ha il 2,23%, ha fatto sapere che intende aderire per circa il 70% delle proprie quote, con un impegno di circa 220 milioni di euro. Lo stesso dovrebbe fare la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che a questo punto ridurrebbe il proprio peso sotto il 2%. Ci sono anche altri soci importanti, Capital Research ha il 6,7% del capitale e c'è anche il Fondo Sovrano di Abu Dhabi, che è azionista con il 5%, per poi ricordare anche i soci privati, e sono Leonardo Del Vecchio, Francesco Gaetano Caltagirone appunto i più rilevanti. C'è da dire anche che il mercato reagisce probabilmente anche all'accordo raggiunto nel fine settimana con i sindacati sui 3.900 esuberi previsti in Italia dal piano Transform 2019, esuberi che saranno gestiti con piani di prepensionamento, ma per garantire un ricambio generazionale Unicredit si impegna anche ad assumere 1.300 giovani durante i prossimi 3 anni, e quindi tutto questo naturalmente provoca un certo fermento in borsa e sul titolo. Milano sta perdendo quasi un punto, perché oltre a Unicredit oggi scivolano pesantemente anche tutti gli altri titoli bancari. Simone. E grazie a Deborah Rosciani. In effetti una giornata particolare sui mercati, quella nella quale lo spread torna sopra quota 190 punti, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, a 193,8 in questo momento per essere esatti, con il rendimento dei BTP a 10 anni al 2,3%. Siamo in linea con Moria Longo del Sole 24 ore. Moria, buongiorno, per chiedergli perché Moria sta salendo lo spread e stanno risalendo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Allora, sono due le forze che stanno portando verso l'alto i rendimenti dei titoli di Stato italiani e non solo. Tenete conto che il mese di gennaio per i titoli di Stato di tutta Europa è stato il peggior gennaio da quando è nato l'euro, per cui è la pressione al ribasso sui prezzi e al rialzo sui rendimenti è forte ed è comune a tantissimi titoli di Stato. Il primo motivo per cui c'è questa pressione al rialzo per i rendimenti è perché il mercato inizia a scontare una ripresa economica non in Italia ma a livello globale. L'Europa è il fanalino di coda, ma anche in Europa c'è una leggera ripresa e un ritorno soprattutto dell'inflazione da uno scenario di deflazione precedente. E quindi questo sta spingendo a livello globale, soprattutto legato agli Stati Uniti con la nuova politica di Trump, ma non solo, questo sta spingendo al rialzo tutti i rendimenti dei titoli di Stato e delle obbligazioni in generale, che tenete conto è da 35 anni che hanno avuto un flusso calante, quindi un periodo buono per il mercato obbligazionario durato appunto 35 anni. Quindi c'è uno scenario generale globale che sta portando i rendimenti al rialzo. Sull'Italia poi c'è uno scenario doppio, c'è una questione doppia ed è per questo che lo spread si sta alzando. Il secondo motivo è legato all'incertezza politica. Ci saranno elezioni quest'anno oppure no, con tutti gli scenari politici che si possono aprire. Allora, quindi il timore politico, l'incertezza politica che sta pesando sull'Italia, ma non solo, per esempio anche sulla Francia sta pesando molto, questo sta creando in Italia un'ulteriore pressione al rialzo per i rendimenti, quindi al ribasso per i pezzi. Ricordo sempre che le obbligazioni hanno questo movimento inverso: quando salgono i rendimenti vuol dire che stanno scendendo i prezzi. E grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per questa analisi in diretta. Veniamo alle vicende romane con ancora le questioni della giunta in primo piano. C'è stata una partenza sbagliata, ma oggi possiamo dire di aver inaugurato una nuova fase. Virginia Raggi prova ad uscire dalla bufera per l'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, che la vede indagata per abuso d'ufficio e falso. Lo fa con un'intervista al Corriere, nella quale sottolinea innanzitutto di avere la fiducia di Grillo e Casaleggio. I due hanno imposto una tregua ai 5 Stelle romani, una mossa accolta con qualche perplessità dall'ala oltranzista. Roberta Lombardi, una delle più critiche nei confronti della sindaca, amareggiata, nega di essere stata lei ad informare i PM delle polizze intestate alla Raggi dal suo ex braccio destro, Salvatore Romeo, il quale a sua volta spiega che si trattava solo di forme di investimento e non di un finanziamento politico. A schierarsi a fianco della prima cittadina è anche Luigi Di Maio. Ci vuole tempo per rimettere in piedi una città come Roma, ma ce la faremo, assicura il vicepresidente della Camera, che preme sull'acceleratore in vista delle politiche. Non è il momento di fare autocritica, è il momento dell'orgoglio, dice il probabile candidato Premier 5 Stelle, convinto che il movimento possa ambire al 40% e alla guida del paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca con un caso di corruzione che coinvolge anche due funzionari del Ministero dell'Interno. Avrebbero accettato denaro e regali in cambio di agevolazioni per alcune pratiche come il rilascio dei permessi di soggiorno, il cambio del cognome o la riduzione dei giorni di sospensione della patente. Per questo due funzionari del Ministero dell'Interno e un poliziotto sono stati arrestati questa mattina a Savona con l'accusa di corruzione. Uno dei due funzionari arrestati è Andrea Santonastaso, attuale commissario prefettizio al comune di Borghetto Santo Spirito, incarico ricoperto in passato anche in altri comuni del Savonese. Oltre al poliziotto e funzionari sono finiti in manette anche altre tre persone, un cittadino marocchino, un cittadino albanese e una donna italiana. L'indagine è iniziata nel dicembre 2015, quando nell'ambito di un'altra inchiesta sono emersi contatti sospetti fra alcuni indagati e il poliziotto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Romania proprio per parlare di corruzione. L'audio che sentite è ancora quello delle proteste di piazza, perché anche dopo il ritiro del contestato decreto salva corrotti, circa 500.000 di manifestanti è sceso nuovamente in piazza a Bucarest e in altre città del paese per contestare il governo di Sorin Grindeanu, e chiedere le sue dimissioni e nuove elezioni. Solo a Bucarest i manifestanti sono stati quasi 300.000 e le immagini dall'alto della serata di ieri sono effettivamente impressionanti. Il ritiro del decreto, sostengono, è arrivato troppo tardi e il governo ha ormai perso ogni credibilità. Il premier ha già detto che non intende lasciare. Quelle di ieri sera, che sono svolte per il sesto giorno consecutivo, sono state le manifestazioni più massicce e imponenti dalla rivoluzione che nel dicembre dell'89 portò alla caduta del regime comunista di Nicolae Ceausescu. E siamo all'Europa, Europa che oggi torna ad occuparsi di immigrazione. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Intanto diciamo che continuano i flussi di migranti verso il nostro paese. A Vibo Valentia sono da poco terminate le operazioni di sbarco delle 612 persone giunte ieri sera con una nave della Guardia Costiera. In arrivo anche ad Augusta una nave con 493 migranti, a Brindisi soccorsi altri 64, mentre sono oltre 1.200 quelli tratti in salvo dalla Guardia Costiera libica in una settimana a ovest di Tripoli, lo hanno riferito le autorità libiche pochi giorni dopo la firma dell'accordo tra il governo italiano e quello di Unità Nazionale Libico di Sarraj. Tutto questo mentre appunto di migranti si discute al vertice dei ministri degli esteri europei a Bruxelles, in particolare al centro dei colloqui rapporti con la Libia, cruciale la solidità del governo libico, ha detto il ministro degli esteri Alfano, il quale ha poi risposto all'obiezione sugli stanziamenti che sarebbero secondo molti ridotti rispetto ai 3 miliardi di euro previsti per la Turchia. Troveremo un euro in più di tutto quello che servirà per risolvere il problema dei transiti nel Mediterraneo e fermare i flussi irregolari, ha detto Alfano. Ma sentiamo la sua voce. Non sarà un problema di soldi, è un problema di tenuta politica dell'accordo in riferimento alle istituzioni libiche e alla loro solidità. Noi li aiuteremo e lo faremo nel pieno rispetto ai diritti umani, perché la forza dell'Italia in questi anni è stata quella di fare sposare sicurezza e solidarietà. Noi abbiamo avuto un paese che è stato fin qui al sicuro, in un mondo globale in cui il rischio zero non esiste, avendo salvato vite umane, avendo dato prova di solidarietà. E intanto arriva il pieno sostegno dalla Germania. Appoggiamo, come tutti i paesi europei, l'Italia che, ha spiegato il portavoce della Merkel, con la sua relazione particolare e storica con la Libia, ha raggiunto un accordo. E da Roma è tutto. E grazie dunque Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Siamo all'apertura dell'anno accademico in Calabria, presente il Presidente della Repubblica Mattarella, Francesco Straticosta, seguendo la cerimonia. Francesco, gli aggiornamenti, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. È terminata da poco la cerimonia, il Presidente Mattarella ha ripreso la sua auto per raggiungere di nuovo l'aeroporto di Lamezia Terme. Bene, una cerimonia molto affollata, molto partecipata, e al quale hanno partecipato anche il Ministro dell'Interno Marco Minniti e il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. C'era anche Rosy Bindi, che è la Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il Presidente Mattarella ha preso la parola proprio alla fine della cerimonia in un discorso che attendevamo ma che non era da programma, un breve discorso fatto a braccia in cui ha ricordato la figura fondatrice dell'Università della Calabria, il trentino Nino Andreatta, che aveva un approccio eclettico alla cultura, ha detto Mattarella. Mattarella che poi ha sottolineato quanto il meridione sia una componente essenziale e decisiva, ha detto proprio utilizzando queste parole, per la ripresa e la crescita di tutto il nostro paese, che ha tantissime energie, che ha bisogno soprattutto in queste zone, nel meridione, di catalizzatori, di cui uno è sicuramente la cultura e quindi anche l'università. Per il resto non si registra nessun tipo di protesta, soltanto un gruppo di studenti ha annunciato per oggi pomeriggio una sorta di contro inaugurazione dell'anno accademico, durante il quale saranno messi in luce alcuni problemi che ha l'Università della Calabria dal punto di vista degli studenti. Ed è tutto. Grazie dunque a Francesco Straticore. Siamo a parlare di cultura, ma in questo caso di cultura digitale. Alla vigilia del Safer Internet Day scopriamo un tipo di analfabetismo, quello digitale, che caratterizza in parte i nostri millennials. Pur essendo nativi digitali e pur passando sui social fino a 5 ore al giorno, non ne conoscono i limiti legali e soprattutto non si rendono conto delle conseguenze di quello che postano, fino a pensare che i ragazzi che in passato si sono tolti la vita perché finiti vittime di cyberbullismo in realtà nascondessero fragilità di altro tipo, cioè non possono essersi tolti la vita solo per dei brutti post in rete. Lo dice uno studio curato da Anna Maria Giannini, direttrice dell'Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza all'Università La Sapienza di Roma. Sentiamola intervistata da Maria Piera Ceci. Questi conoscono molto bene i modi di navigare, gli accessi ai social, eccetera, ma ignorano completamente le regole della rete. Per esempio, non si rendono conto che certe azioni sono illegali, non si rendono conto di che fine fa il materiale, ma soprattutto sono dei diseducati della rete sul piano affettivo. Cioè, loro non si pongono minimamente il problema dell'effetto che può avere la loro comunicazione, proprio perché vivono la rete come una specie di diaframma che attutisce ogni colpo, come una specie di muro di gomma in cui tu lanci delle cose che poi rimangono lì, e quindi non c'è la possibilità di porsi il problema di che cosa prova la vittima, e addirittura ci si autogiustifica, per cui se uno gli chiede: ma sai che il furto d'identità, cioè creare un profilo a nome dell'altro, oltretutto non è neanche legale? Loro non lo sanno, dicono: ah no, per me era uno scherzo, ma sì, ho creato un profilo falso, ma in fondo questo non è grave. Ecco, la incapacità proprio di valutare le conseguenze per l'altro e per se stessi. Siamo allo sport, giornata, o meglio, fine settimana decisamente ricco, perché insomma tra Juventus-Inter, l'Ital Rugby contro il Galles e poi Dario Ricci, il Super Bowl, no? Sì, insomma, chiedo scusa per la voce, provate le occhiaie, caro Simone, ma stamattina abbiamo chiuso alle 4:30. Sì. Perché il comunque Super Bowl... le occhiaie non si vedono, qua in radio, meno male, ecco, non vorrei che la webcam mi tradisse. No, veramente spettacolo assoluto a Houston, grande impresa questa di Tom Brady e dei suoi New England Patriots, parto da qui perché davvero quello che ha fatto Brady in quell'ultimo drive e poi nel supplementare, rimontando da... questo parziale clamoroso dagli Atlanta Falcons, rimane nella storia dello sport e ne fa di fatto il più grande quarterback della storia, con 5 titoli conquistati, davvero. Beh, ma poi il nostro amico Giuseppe Cruciani se ne intende anche di più stasera, vedrai che ne riparlerà anche la zanzara, troverà modo di toccare di il toccare. Tema. Più prosaicamente, ma anche in modo più vicino a noi, è stato il fine settimana del Derby d'Italia, Juventus al quadrato, come in tanti hanno titolato, visto il bolide del colombiano che ha deciso la sfida contro un'ottima Inter, e questa non è una sorpresa perché l'Inter, come si dice, gioca li ha sempre avuti, serviva un tecnico che riportasse la barra dritta, e Pioli, che pure sempre ha fatto giocare bene anche le sue squadre, è questo tipo di tecnico, sta dando solidità nella consapevolezza che questa è la sua grande occasione, perché anche lui è un allenatore a termine, aleggia sulla panchina dell'Inter lo spettro, tra l'altro sarebbe graditissimo dalla curva di Diego Simeone, quindi Pioli sa che si sta giocando tutto finalmente alla guida di una Ferrari, e la sta facendo andare. Ancora non è la Juventus, l'abbiamo visto anche ieri, ci sono state le polemiche arbitrali con Rizzoli, ma insomma poi tutti i convocati approfondirà, ma è un Inter avviato sulla buona strada. A chiudere, Dario, 10 secondi su questa Italia del rugby che tutto sommato perde con ampio scarto, che però non sfigura per niente contro il Galles, almeno nel primo tempo, no? Sì, però le partite di rugby durano 80 vanno minuti, vanno vinte, ci sono stati 40.000 spettatori, per la prima volta olimpico non tutto esaurito, hai visto mai che non sia un campanello d'allarme, ci sono diversi problemi ancora da risolvere, uno, la disciplina, prendiamo tanti calci contro, tanti falli, e due, strettamente collegato, l'autorevolezza di questa squadra. Il rugby è un mondo molto conservatore, al limite del reazionario, e quindi quelle partite devi vincerle con 10 punti di scarto, se vuoi portarle a casa, perché altrimenti è difficile che molti arbitri, qua magari torniamo pure alla sudditanza psicologica del calcio, che qualche arbitro fischi contro il Galles e l'Inghilterra o con continuità a tuo favore. Quindi c'è anche questa montagna da scalare. Vedremo cosa succederà all'Ital Rugby nelle prossime partite del Sei Nazioni. Intanto grazie al nostro Dario Ricci, noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, questo è tutto materiale ovviamente per tutti i convocati a partire dalle 14, traffico, e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, e inizieremo dalla vicenda di un malato di epatite C, uno tra quelli che è andato in India a comprare le medicine perché costano 2.500 euro contro gli 75.000 euro che costano in Italia, e ha vinto una battaglia legale perché gliel'avevano sequestrati in aeroporto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'aumento di capitale di Unicredit che parte oggi, dell'andamento dei titoli di Stato, delle vicende della giunta romana, delle dichiarazioni di Virginia Raggi, di un caso di corruzione che ha visto finire in manette un poliziotto e due funzionari del Ministero dell'Interno. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Milano. Saluto Roberto Del Bo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, malato di epatite C, cosa ha fatto? Ha ordinato il farmaco su internet dall'India e il farmaco è stato sequestrato a Ciampino. Come già accennavo agli ascoltatori, che forse lo sapranno perché storie come le sue, non proprio come le sue magari, però insomma se ne sono sentite, qua parliamo di un farmaco, quello che potrebbe curare l'epatite C, e che in Italia costa 74.000 euro la cura e in India costa 2.500 euro ed è la stessa identica medicina. Si parla tanto di quanto... No? Posso puntualizzare? Prego, prego. Innanzitutto sono 1.500 dollari e non dollari, euro. Vabbè, insomma, sì. Adesso, tanto per essere precisi. Sì. Poi, in India non è vero che è costato 2.500 dollari questa spedizione. Sì. Questi tre famosi flaconi. che io non ho mai, li ho ricevuti a ottobre, che non ho ancora aperto perché sono lì. Io sono andato in India con un'associazione che si chiama Arimedio, sì, il 19 di, 8 di agosto, mi hanno visitato in India, mi hanno dato la medicina, diciamo, mi hanno fatto la prescrizione medica, con quella sono andato in una farmacia sempre in India che mi hanno dato questi famosi tre flaconi, ho cominciato a prendere il 19 di ottobre, di agosto in India, e ho finito di prenderli, sono 28 pastiglie per flacone, il 10 di novembre qui, sì, in Italia, sì, e naturalmente sono tornato indietro, non sono rimasto niente. Sì. Ho fatto la visita dopo 30 giorni, l'epatite C non risulta più nel mio sangue, e rifaccio la visita di controllo, bisogna farla dopo 3 mesi, sì, per avere la certezza di essere guarito completamente. Questo secondo sì, step è costato 2.300 euro più il viaggio in India, e la medicina che ho pagato nella farmacia indiana è stata di 600 euro. 600 euro il costo della medicina in India. Dei tre flaconi di farmacia. Dei tre flaconi. Però ci sono dei flaconi che sono rimasti bloccati a Ciampino sostanzialmente. Quelli bloccati a Ciampino. Quando mi è arrivata la comunicazione a giugno che era stata bloccata questa spedizione a Ciampino, perché dicevano che io non potevo importarli, anzi ero soggetto anche a un'indagine penale per illecita importazione, allora mi sono rivolto a un avvocato che ha fatto il ricorso. E nel frattempo si è prenotato il viaggio in India per andare a, per andare a prendere queste medicine. Esatto. Il punto è, la notizia è che questi flaconi sono stati dissequestrati, cioè il tribunale ha deciso in suo favore, no? Esatto. Sì, ma non è mica finita qui. Io ho chiesto i danni, ho citato adesso il Ministero della Sanità e l'AIFA per la richiesta dei danni che questi ritardi mi hanno procurato. Da quel che ho capito, Del Bo, la sua richiesta di danni non è una richiesta di danni che fa esclusivamente pro domo sua, no? No, io questo è perché per spingere lo Stato italiano a dare a tutti i malati di epatite C la medicina, come giusto e doveroso che sia, che li guarisce, perché andare dal medico, andare alla Granelli, Padiglione Granelli, sentirsi dire sì, lei ha l'epatite C, ma adesso non possiamo curarla, se non quando diventerà grave, perché è una medicina così costosa che lo Stato passa soltanto quando uno è quasi all'ultimo stadio, capisce che non è bello. Ma questa differenza di prezzo tra l'India e l'Italia, da cosa dipende? Dipende dal fatto che in India non pagano le royalty. Viene prodotto senza pagare le royalty alle multinazionali. E questo quindi vuol dire che in effetti con 600 euro si può avere questa medicina. Attenzione, l'ho comprata io che sono l'ultimo. Quindi quel sovrappiù, come dire, appunto, non è un prezzo di produzione o chissà cosa, è il prezzo delle royalty alla casa farmaceutica. Esatto. Poi lo Stato italiano sembra che l'abbia direttamente dalla casa farmaceutica a 15.000 euro, diciamo, a malato. Queste sono cose che io non so, perché bisogna chiedere a loro. Allora, Del Bo, vedremo come andrà. Intanto, in bocca al lupo, vedremo come andrà anche la visita successiva e come andranno i prossimi passi giudiziari. Grazie a Roberto Del Bo per essere stato con noi. E nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Napoli. Beh, c'è questa storia che sta rimanendo un po' sotto traccia in queste ore e che riguarda i candidati a loro insaputa alle elezioni comunali. Tutto è partito con la denuncia della mamma di una ragazzina down. Questa ragazzina down si è trovata appunto inserita nelle liste comunali, ma le cronache locali ci danno dei racconti straordinari. Per esempio, una donna, Vincenza Massa, la quale dice: mio marito il 4 gennaio ha trovato un avviso nella cassetta delle lettere. Mi intimavano a rendicontare le spese elettorali entro 15 giorni, altrimenti avrei dovuto pagare una sanzione che va dai 25.000 ai 103.000 euro. Lui fa il camionista, lei la casalinga, quindi vi potete immaginare. E tra le persone candidate a loro insaputa in queste liste collegate al PD, alla candidata del Partito Democratico Valente, c'era anche, se non erro, Donatella Biondi, che è un avvocato. Buongiorno avvocato, benvenuta. Buongiorno, salve, benvenuta. Allora, come l'ha scoperto di essere stata candidata? Allora, l'ho scoperto, come lei stava anticipando, anche io con una comunicazione che mi è arrivata dalla Corte d'Appello di Napoli, in cui mi chiedeva di rendicontare le spese, pena un'ammenda fino a 100.000 euro. Quindi, stessa cosa, stessa momento, cosa della signora. Stessa cosa della signora, esattamente. Avevo avuto, diciamo, delle avvisaglie nel periodo elettorale, perché qualche collega aveva letto il mio nominativo su queste liste e mi aveva chiamato dicendo: ma sei candidata? Io in quel momento, le dico la verità, avevo pensato a un caso di omonimia, per cui non mi sono interessata. Lei dice: non è che sarò l'unica a Napoli che si chiama Donatella Biondi, Infatti, quindi in quel momento non ci ho dato peso. Ovviamente nel momento in cui mi è arrivata questa comunicazione ho fatto le mie indagini e ho ottenuto sulla comunicazione c'era la mia data di nascita, per cui a quel punto ho capito che non si trattava assolutamente di omonimia. Quindi così ho appreso, diciamo, la notizia. E dopodiché è iniziata la mia sensibilità. È riuscita ad avere qualche spiegazione su tutto questo? Perché la Valente, insomma, ex candidata del Partito Democratico, dice: io non ne sapevo niente. Adesso addirittura non esclude il complotto contro di lei. Lei è riuscita ad avere qualche dettaglio in più? Guardi, io sono riuscita a parlare con la segreteria, mi è stato fornito il numero della segretaria della Valente, cui avevo spiegato, diciamo, tutta questa situazione, e lei inizialmente aveva capito che ero una candidata che non sapevo compilare questo modello di mancanza di spese. Quando ho spiegato la situazione mi è stato detto che poi mi avrebbero fatto chiamare da chi si occupava di queste liste. Nel frattempo, ovviamente, poiché i tempi erano stretti, perché mi davano 15 giorni, io sono andata alla Corte d'Appello, ho fatto la mia dichiarazione, diciamo, una sorta di denuncia in cui dicevo che io appunto non ero stata mai candidata, quindi non potevo fare una dichiarazione di quel tipo perché non avevo mai partecipato alle elezioni, insomma. E dopodiché poi ho avuto contatto con una persona che si occupava della lista. Ma quanti siete, Biondi, quanti siete candidati a vostra insaputa, se è capito? Guardi, io sono stata in procura in questi giorni, si sta allargando la lista, perché all'inizio si parlava di 7-8 casi, adesso penso che almeno accertati sono 15-16 di quello che sono io. Almeno 15-16, bellissima. Bellissima storia. Grazie Donatella Biondi per essere stata con noi, continueremo a seguire la vicenda, vedremo, insomma, se ci saranno evoluzioni anche giudiziarie, supponiamo, a questo punto. Una pausa, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi dopo ci ritroviamo nel nostro giro per l'Italia, torneremo in un luogo dove siamo già stati in realtà, che è Castel d'Azzano, e siamo in provincia di Verona, dove c'erano state grandi proteste perché era stato requisito un albergo dalla prefettura per ospitare dei migranti. Ebbene, è rimasto requisito per 3 mesi. Non c'è andato nemmeno un migrante e i proprietari dell'albergo non hanno ricevuto un quattrino conseguentemente. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: parte l'aumento di capitale di Unicredit, vendite su azione sui diritti di opzione, titoli di Stato, spread ai massimi da novembre. Avevo sbagliato, ma Grillo e Casaleggio mi appoggiano, dice Raggi. La sindaca replica anche a Totti e apre sulla possibilità dello stadio della Roma. Corruzione in manette, un poliziotto e 2 funzionari del Ministero dell'Interno, anche un viceprefetto. C'era anche il rilascio di permessi in cambio di denaro. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Allora, vi abbiamo detto che saremmo andati nel Veronese per la prossima tappa del Giro per l'Italia, ma come sapete il tempo a nostra disposizione lunedì è un po' più limitato e quindi una storia che magari torneremo ad affrontare nei prossimi giorni. Facciamo così, prima di chiudere, di dare la linea a Mario Platero, andiamo a Sanremo perché domani si apre il festival con barriere jersey antisfondamento, misure di sicurezza dopo gli attentati di Nizza e Berlino. Sul fronte dello spettacolo ci sarà anche il DJ tedesco Robin Schulz, autore della hit Prayer in Sea, tra gli ospiti attesi al prossimo festival. Giorgio Moroder sarà il presidente della giuria degli esperti, ne faranno parte Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi e Giorgia Saurina. Con Carlo Conti, Maria De Filippi ha anche scherzato su un classico di Sanremo, sentiamola. I vestiti sono molto importanti, il fisico non è così importante come il vestito, però cercheremo di camuffare. Non aspettatevi la scala. Ve lo dico, c'è poi un dibattito in corso con tutti, perché quella scala a me fa paura e non so se la farò. Può darsi di no, ma penso che saremo anche senza la scala della De Filippi, ecco, no? Giusto? Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.